vieni, non mi pensavi mai. Il tuo sguardo impassibile non spiega la tua voglia di baciarmi, fatto sta che tu non sai resistere al mio fascino. Questo è quello che vorrei. Pensi sono fatti tuoi. Il tuo sguardo impassibile non spiega la tua voglia di baciarmi, fatto sta che tu non sai resistere al mio fascino. Questo è quello che vorrei. Baciarmi fatto.